Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi. Dice il portavoce dell'esecutivo comunitario Schinas che l'emergenza immigrazione è la priorità delle priorità per la Commissione europea, che sta lavorando intensamente per finalizzare entro maggio la nuova strategia. Agiremo perché la grandezza del fenomeno è tale che non può attendere, dice la Schinas, ma il solo modo per cambiare la situazione è cambiarla alla fonte, cioè in Libia, Siria ed Iraq. Ma nel frattempo l'Unione Europea cerca la cooperazione con l'Unione Africana e i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Il lavoro prosegue, non siamo soddisfatti del livello di progressi raggiunto finora, lo ha detto il portavoce del presidente Juncker, aggiungendo che il lavoro deve intensificarsi per quanto riguarda, lo ricordo, la Grecia e le trattative sempre più serrate ma sempre più complicate per uscire dall'impasse economico. Continuano le schermaglie tra Turchia ed Unione Europea invece sul genocidio armeno. Ankara ha risposto ieri sera e duramente all'Europarlamento, che nel pomeriggio si era schierato al fianco di Papa Francesco nella polemica sul riconoscimento del genocidio armeno, chiedendo all'Armenia e alla Turchia di utilizzare gli esempi riusciti di riconciliazione tra le nazioni europee per costruire relazioni diplomatiche, aprire le frontiere, raggiungere obiettivi di cooperazione e integrazione economica. I deputati hanno anche proposto l'istituzione di una giornata della memoria internazionale per i genocidi, in cui si potesse rendere omaggio anche alle vittime armene dell'Impero Ottomano. Parole e proposte del tutto indigeste, a giudicare dalla nota emessa dal Ministero degli Esteri turco. Il Parlamento europeo, famoso per frapporre ostacoli allo sviluppo delle relazioni Turchia-Unione europea, si legge, ancora una volta ha aspirato a riscrivere la storia riguardo ai fatti del 1915. Una risposta che ha portato forse alle dimissioni del primo consigliere di origine armena di un premier turco, Etienne Makupian, 65 anni. Ufficialmente ha lasciato oggi l'incarico per motivi di età, ma solo qualche giorno fa in un'intervista aveva dichiarato che se si accetta che ciò che è accaduto in Bosnia e Africa è genocidio, è impossibile non definire genocidio anche ciò che è accaduto agli armeni nel 1915. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Italia ha bisogno di un quadro chiaro di regole, di rafforzare le competenze tecniche delle pubbliche amministrazioni per sfruttare al meglio il piano Juncker. Lo ha detto oggi il vicepresidente della Banca Europea per gli investimenti Scannapieco, aggiungendo che il comitato di consiglio di amministrazione della BEI esaminerà già la prossima settimana i primi progetti finanziabili attraverso il piano Juncker. A febbraio le esportazioni italiane crescono del 3,7% rispetto allo stesso mese 2014, trainate dall'area extra UE più 7,1%. Lo rileva l'Istat, che segnala incrementi anche rispetto al mese precedente del 2,5%. Sono in aumento anche le importazioni dell'1% sull'anno, dello 0,6% sul mese. 14:05:06, vi saluta qui Daniele Biacchese. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.